Giove e il navigante, da favole, dicendo la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Se l'uomo memoria avesse di tutte le promesse che nei perigli estremi al ciel fa, avrà gli dèi regali in quantità. Ma superato il male, è corta la memoria del mortale. Giove, si dice, è un creditor cortese che non manda all'usciere in fin del mese. Sarà, ma se talor lampeggia e tuona, vedrai che non canzona. Un navigante in mezzo alla bufera al vincitor promise dei giganti, pur non avendo nella stalla un bove, un'ecatombe intera. Egualmente potea 100 elefanti prometter quel burlone al padre Giove. Quando ebbe posto il piede sulla riva, bruciò 4 ossa al naso del gran dio e il fumo dedicò che ne saliva. «O babbo Giove», disse, «eccoti il mio voto adempiuto. È fumo questo di bove e porta il pio profumo che soltanto tu chiedi a un buon divoto. Noi siamo in pace e soddisfatto è il voto». E Giove finse un poco di ridere, ma dopo qualche giorno, per rispondere al gioco con un gioco, gli manda un sogno a dirgli che non molto lontano da lui stava un tesoro sepolto. Accorre il ghiotto mancator di fede come accorre alla fonte l'assetato, ma invece di un tesoro dei ladri vede che lo pigliano in mezzo e dispogliato lo lascia mezzo ignudo. Ei, non avendo indosso che uno scudo, per salvarsi promise a ognun di loro 100 scudi di un certo suo tesoro. E disse il luogo ove giacea riposto, ma i ladri che non credono sincero, basta, dicono, a casa del demonio, porta i tuoi scudi e impara a dire il vero, e sconciamente l'ammazzar sul posto. Fine della favola, Giove e il navigante. Questa registrazione è di dominio pubblico.